E quindi l'ascolto è la base delle relazioni interpersonali. Quando non c'è ascolto reciproco, la relazione latita, fatica, arranca, tarda a svilupparsi. I prossimi autori ospiti del simposio hanno sviluppato una pratica di ascolto reciproco per far interagire i rispettivi linguaggi. E do quindi il benvenuto a Mattias Campaci e Gianluca Favetto. Mattias, Gianluca, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, Mattias Campaci è musicista e pedagogo e Gianluca Favetto è scrittore, drammaturgo, giornalista, collabora fra gli altri con Repubblica e Radio Rai. Mattias, un concetto tipo Mattias e Gianluca, non voglio essere così dogmatico nel fare le domande l'uno o l'altro, anche perché voi siete un'entità doppia che si fonda in un unico essere pensante. Detto questo, un concetto tipico del jazz è l'interplay. Interplay indica la capacità di interagire all'istante, anche e soprattutto durante le parti improvvisate, tra i diversi musicisti pronti ad ascoltare e reagire, cogliendo i suggerimenti impliciti nel suono degli altri membri del gruppo. Penso che sia un atto metadivino la cui condizione basilare è la capacità di ascolto profondo. L'interplay è anche una potente metafora alla quale potrebbero corrispondere innumerevoli pratiche, di certo di matrice creativa, ma anche pratiche esistenziali. Beh, sì, rispondo io, visto che sono il musicista della coppia. Direi che l'interplay si basa sostanzialmente sull'ascolto, è più ascoltare che rispondere, nel senso che mentre suoniamo e improvvisiamo, anche magari tra perfetti sconosciuti a volte, abbiamo la necessità di ricevere una specie di messaggio che sta tra di noi mentre stiamo dialogando con gli strumenti. Una volta ricevuto il messaggio, nel minor tempo possibile tentiamo di sintetizzarlo e di rispondere, che poi è la stessa cosa che facciamo io e te quando chiacchieriamo. Certo. Solo che magari è meno immediata la questione, perché il linguaggio in italiano, per esempio, ci è dato fin da piccoli, quello musicale no, però direi che l'ascolto è alla base. Una concezione dell'ascolto come quella che stiamo tentando di propugnare, Gianluca, suggerisce un approccio all'acustica come base per sintonizzare relazioni e anche luoghi, direi. Si parla infatti di giustizia acustica e di acustica sociale. L'acustica è quindi un campo di azione politica. Ah, questo è certo, perché secondo me tutto adesso no. Agli slogan vecchi, intanto mi stanno passando davanti qui dove sono, sono al Balloon, che è questo mercato generale di Torino uscito fuori da un'osteria. Mi sta passando davanti saranno tre o quattro classi insieme che se ne stanno andando adesso, e quindi quando sei in un luogo come il Balloon, ma quando sei di fronte a qualunque cosa, normalmente, e se io ti chiedo di descriverlo, normalmente quello che uno fa è racconta ciò che vede. Si dimentica che siamo fatti di cinque sensi, forse addirittura sei, e quindi quando tu restituisci una cosa che hai vissuto o di fronte a un panorama, non soltanto lo sguardo, ecco, se annulli tutto il resto e catturi soltanto con lo sguardo, ti perdi il 75% di quello che hai vissuto. È lì che metti in campo invece l'ascolto, che non è soltanto, abbiamo una serie di sinonimi, che non è soltanto acustico, che non sono soltanto i suoni, i rumori, è proprio un modo di percepire il mondo, adesso uso un ossimoro, attraverso un altro punto di vista. Per scrivere e anche per scrivere e improvvisare di fronte a una cosa, no, reagire attraverso la scrittura, per scrivere i movimenti fondamentali sono tre. Uno è andare, forse alla base, alzare il culo dalla sedia, alzare il culo dal tuo luogo principe, dalla tua comfort zone, e andare a vedere le cose, qualunque cosa sia andarla a vedere, uscire dalla tua pace, dalla tua cuccia e andare. E le due azioni che successive a questo muoversi incontro verso le cose sono contemporaneamente vedere, che è un'azione che parte da te e va verso il fuori, e ascoltare, che è un'azione che dal fuori raggiunge te. Ora, se noi raccontiamo soltanto con gli occhi e ci perdiamo il tatto, ci perdiamo l'olfatto e ci perdiamo in questo caso soprattutto l'udito, l'ascolto, la capacità di sentire, di accogliere con la pelle, non soltanto con lo sguardo, con le orecchie, il mondo che attraversiamo, ecco, ci perdiamo una buona parte del nostro sentire. Assolutamente sì, quindi una componente quella visiva centrifuga e una componente quella uditiva dell'ascolto centripeta. Bravo, bella immagine. Una forma di rimbalzo come quella che avete attuato tu e Mattias per produrre il contributo che avete creato per questo simposio. Ecco, l'idea del rimbalzo, come diceva Mattias, fare jazz a me piacerebbe. Che a me piacerebbe l'idea che scrivere, che uno scrivesse con l'idea del jazz, cioè che anche lo scrittore, forse tutti nella vita dobbiamo essere un po' jazzisti per vivere, sicuramente la scrittura si tiene insieme le più diverse sfumature, deve essere fatto da uno scrittore che è jazz. Ecco, nel jazz la cosa, diceva Mattias, importante, i musicisti questi che sanno fare musica per loro una cosa naturale, è l'ascolto più del suono che produce. Quando racconto delle cose in teatro agli attori o alle persone che vogliono scrivere, la cosa fondamentale non è quando ti alzi tu e dici il tuo pezzo di 3 minuti, ma è gli altri che sono attorno a te che devono ascoltarti, perché l'ascolto produce la rete, produce, ecco, l'ascolto è il basso tubo di fondo, l'ascolto è il suono di fondo, è la cosa di fondo da cui si alza poi una voce. Se non c'è l'ascolto, se dal silenzio non parte niente. L'ascolto è fare la base, non so se riesco a esprimermi, ma io adesso lo sto vedendo, non so se riesco a tradurlo in parole. Cioè l'ascolto non è il silenzio, non è star zitti di fronte a un altro, l'ascolto è partecipare ed essere vivi, esserci, e da quella cosa lì io posso partire per i miei 3 minuti, non so se mi sto spiegando. Sì, decisamente ti stai spiegando. E quello dello scrittore, Gianluca, è una responsabilità enorme, mandare messaggi, fare sì che tutto ciò venga recepito, il messaggio viene recepito attraverso la lettura per quanto riguarda la scrittura, ma anche la lettura diventa quindi una forma di ascolto certo. Il fruitore, il lettore diventa quindi una forma di coautorialità. E questo continua a dimostrare quanto l'ascolto sia necessariamente un atto eroico o meno che si fa in due. Come minimo, e immagino che voi forse l'abbiate già detto, forse ne abbiamo tutti coscienza se ci pensiamo. Se non pensate che quello che veramente manchi, l'ascolto poi è una forma di accoglienza e di gentilezza, non pensate a quello che sta mancando disperatamente alla società che abbiamo costruito, cioè proprio la capacità di ascolto, che appunto non vuol dire stare in silenzio. Io non so se ascoltano tutti quelli che stanno nelle chiese contemporanee, nei salotti TV, di fronte alla televisione, di fronte ai media, di fronte a no, anche ai cellulari a cui sono appeso io adesso. Ecco, non vi sembra che tutti quelli non ascoltano in un teatro, se ci sono 500 persone che ascoltano il monologo di uno che dice le sue opinioni, ecco, ascoltano ma non ascoltano veramente, non so se mi sto spiegando, perché sono passivi. Certo. E a me sembra, proprio perché l'ascolto è un atto politico, ma non, cioè, è un'azione politica, non è rivolta verso qualcosa, ma è rivolta ad accogliere qualcosa. A me sembra che quello che manchi. Con l'ascolto c'è più gentilezza, c'è più predisposizione all'altro, perché è dall'ascolto che ti apri con l'altro. Non se ti metti lì a parlare perché lo vuoi convincere, perché è una cosa importante da dire. Devi respirare, star lì. Non bisogna esporre qualcosa a qualcuno, ma bisogna esporre qualcuno a qualcosa. Bello, buona frase, sì. Allora, raccontateci un po' cosa avete creato per noi. Mattias. Eccomi. Gianluca mi ha mandato delle sue riflessioni sul tema dell'ascolto e poi ha legato due poesie che ha scritto, e io, come ho sempre fatto con lui, ho cercato di ascoltare, ecco, e dare spazio nel tempo, spazio nella musica, al suo ritmo, partendo dal suo ritmo. E senza distorcerlo, senza tagliarlo, ho semplicemente messo insieme le tracce che lui mi ha mandato, ho cercato un ritmo e ho musicato questo ritmo sotto, provando ad ascoltare. E allora io direi che è arrivato il momento. Vorrei dire proprio, scusami Sandro, volevo dire, no, e mi sembra importante quello che ha detto dare spazio, perché per quello che ascolterete, e la sua musica, adesso la dico male, è la scenografia, ha proprio creato un luogo, per la cosa che abbiamo detto, ha fatto in quella maniera, ha fatto sua le mie parole. C'è un concetto di spazio, quindi di scenografia, di ambiente, ecco, gli ha dato casa, gli ha dato orizzonte. E quindi siete andati insieme a braccio, si diceva. Sì. E allora noi ringraziamo Mattia Scampaci e Gianluca Favetto. Grazie a voi. Entrambe ricordate di ricordare e ascoltate il vostro ascolto. Gianluca, ciao. Mattias, grazie. Grazie, amici. Arrivederci, ciao. C'è una poesia che ho scritto e un mondo, anche quello scritto in forma di poesia, che c'entrano con l'idea dell'ascolto. E dicono in fondo che l'attesa è il principio dell'ascolto, è al principio dell'ascolto. E così la sospensione. E arrivano entrambe alla fine di queste parole. Sospensione e attesa sono le due madri dell'ascolto. L'ascolto che è luce, sapore, sapere, carattere, tempo, memoria e anche spazio, lo spazio che dai all'altro. È partecipazione, non indifferenza, non lasciar dire, lasciar fare, subire. L'ascolto è partecipare alla parola, alla presenza degli altri, essere aperti, esserci senza giudizi, senza pregiudizi, muri o armature. Ascolto. Alfa privativo, ascolto, togli la A e rimane la S, e anche la S è privativa, scolto. Una doppia negazione dunque, all'essere colto. Non all'essere in sé, ma al presentarsi, al supporsi, e supporsi è già un po' essere supposta, al compiacersi, all'esibirsi colto, cioè completamente coltivato, già saputo, al calduccio ben protetto nel proprio credo, nella propria opinione, nella propria cuccia. L'ascolto è capacità di stupirsi e accogliere, di andare oltre le proprie abitudini e conoscenze, con tutti i propri sensi, e c'entra con l'udire, sentire, seguire, intendere, percepire, toccare, annusare, vedere. Ascoltano le mani, oltre agli occhi, la pelle e il cielo, il prato soffiato dal vento e il cammino. Ascoltano le labbra e i polmoni, naturalmente il cuore e il culo. Ascoltano le stelle e gli alberi, il mare, i mari, gli oceani e la battigia. Le montagne ascoltano e il silenzio. Il silenzio ascolta anche per te e per me. Ascolto come vedessi parole cantate dalle cose. e musiche farsi acqua e labbra sale, come toccassi corde e corde toccassero me, ascolto. L'ora che il respiro scala i polmoni, la gola, e umido si fa sotto il palato, non grido, chiedo. Vedi tutte le immagini del mondo? Per uccidere bisogna morire, amata, ascolto. Come annusassi il vento, a soffi laceri, le vesti, le pelli umane. Questo tremendo sbucciarsi della vita, che niente rende, solo il ricordo, amata, a nausee più lontane, ascolto. I movimenti, i muscoli, quello che resta del cuore, la piana assunzione dell'aria, il canto che canta, il possesso delle ore, ascolto. Come portassi mio d'altri stranieri il volto. O il mondo, dove la vita è rinchiusa nei campi di battaglia quotidiana. Convinto di raccontare il mondo, racconto ciò che esiste intorno, la periferia delle cose. Nessun luogo è il centro, nessuna scrittura, nessun sapere o memoria. Niente basta dire questo è il luogo. Il luogo non è geografia, è storia, persona, persone, voci, e non è mai questo, è altro. Curo leggere le parole come fossero viaggi e case, patrimoni e galere che si muovono sull'acqua. Non c'è biblioteca, enciclopedia che sostituisca il mondo. Non c'è libro se non la vita. E non c'è vita se non fuori di te. Fuori di te è il mondo. Ma non c'è mondo che non abiti fogli, carte, mappe, inchiostri per vincere la nostalgia. E non c'è racconto se non c'è ascolto. Buongiorno a tutti da Nicola della Dmica Vision. Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano. Ciao Nicola. Allora, come si chiama la vostra azienda? Numismatica Terziani. Da quanto tempo siete attivi? Dal 1996 abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e ampliando anche la seconda sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia. E nella sede di via Castiglione c'è mio padre, Romano Lenzi. Invece adesso ci troviamo nella altra sede, che è via Galliera 31B. Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività? Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie. Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza? Noi abbiamo un sito che si chiama numus.it, sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in uno dei nostri due punti vendita, in via Castiglione 5C e in via Galliera 31B. E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela? Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi. Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti? Investimenti in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati. Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta, ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere. Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite, sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto. Un'altra domanda, Emiliano, se un cliente vende un proprio bene in uno dei due negozi, quando riceve il pagamento? Il pagamento è immediato. E questo ovviamente in uno dei due punti vendita di Bologna che si trovano? In via Castiglione 5C e in via Galliera 31B. Numismatica Terziani. Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è www.numus.it. E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene? Può ritirare la merce direttamente in uno dei due punti vendita oppure possiamo spedire al cliente tramite corriere GLS. Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva? Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito. La promozione sarà valida fino al 30 giugno 2024. Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure via Galliera 31B, Bologna, telefono 051 22 36 33, www.numus.it. Questo è Al buio stili, un simposio sull'ascolto che tenta di approfondire e srotolare il discorso concentrico fra il sentire e l'ascoltare. E parola e suono, parola e musica possiedono quella rara capacità di compenetrarsi e rendersi vicendevolmente complementari, come solo pochissimi binomi, a parer mio, riescono a fare. Esiste un punto di intersezione fra queste due entità e la prossima autrice nella propria pratica artistica e lavorativa cuce meticolosamente ricerca del senso e del suono, lavorando sulla musicalità del verbo. Diamo quindi il benvenuto ad Alison Grimaldi Donahue. Ciao Alison. Ciao Ale, grazie per questo invito. Grazie a te, sono molto felice e onorato del fatto che tu sia qua con noi. Allora, Alison Grimaldi Donahue è scrittrice, artista, traduttrice. È autrice di Body to Mineral e On Endings e recentemente ha fatto delle performance poetiche presso Kunsthal Bern, Cabaret Voltaire, il fantastico e mitologico Alison Cabaret Voltaire, Sonnerstube Lugano, Short Theater, Fondazione Giuliani, nonché Guggenheim Venezia. Inoltre Alison insegni scrittura creativa e gender studies alle università americane. Allora, Alison, esiste un granitico teorico musicale tedesco che si chiama Hugo Riemann, il quale asserisce: gli aspetti di indeterminata determinazione, di saturazione da completare, permettono al processo sonoro di diventare immediatamente un vettore immaginativo. Mi sembra lo stesso meccanismo che mette in moto la letteratura, la narrazione, la parola in definitiva. Quando poi la parola è formulata per sottolineare la propria musicalità, come nella poesia, beh, io direi che questa sinergia è al suo apice. È molto bello questa citazione. Tu sei poetessa, possiamo dirlo? Sì. Come raccontaci il tuo processo, immagino, spero, auspico che ci sia un processo di ascolto interiore che si rivolge alla parola. Cioè, per me comporre la poesia è molto un atto di ascolto. Ci penso tantissimo al fatto, e ripeto spesso perché dicevi che insegno, penso molto al fatto che leggere è molto più importante di scrivere nella vita di uno scrittore, credo. e quindi questo è un altro modo di stare sempre in ascolto, anche al mondo, anche a tutte le cose che succedono intorno a noi. Per me anche ci credo molto in questa teoria che aveva un poeta americano, Jack Spicer, che lui diceva, tanti altri intorno a noi, intorno a lui dicevano che la poesia non è una cosa che viene necessariamente da dentro di noi, però viene dalle cose che sentiamo, che ascoltiamo, che viviamo. Quindi siamo praticamente delle medium che trasmettono delle cose che ascoltiamo. Questo concetto che noi siamo dei medium, dei vettori, sì, è già affiorato diverse volte, un paio di volte durante questo tentativo di simposio sull'ascolto. Probabilmente l'ascolto, che sembra essere un'attività individuale, è in realtà un'attività di gruppo che si crea all'interno di una relazione. Sono molto d'accordo. Sai che in un'intervista rilasciata dopo la vittoria del Nobel per la letteratura, John Fosse dice, testuali parole: un'opera poetica arriva come un dono che, una volta ricevuto, richiede di lavorare sodo. Non serve a niente starsene lì seduti sperando che qualcosa piova sulla carta. Va tutto fatto emergere rimanendo in ascolto. A volte, tirandolo fuori a fatica, fino ad avere l'impressione di dovermi strappare le parole dalla carne e i suoni dalle orecchie. La musicalità della parola, Ellison, secondo te come viene trattata nella tua pratica? Mi chiedo, fonemi e monemi sono come delle note musicali? Sì, molto. Cioè, io spesso cammino per strada recitando le poesie, facendo riscritture nella mia testa. Cioè, spesso vengono tipo pezzettini, come dicevi tu, foneme, moneme, cioè proprio pezzettini, perché le cellule proprio. Per me la differenza fra il linguaggio quotidiano e la poesia è proprio l'attenzione a questo fatto del ritmo, della scelta del suono nella bocca della persona che crea la poesia. Cioè, perché se provo io un piacere quando compongo una poesia, magari quando gli altri sentono la poesia anche loro provo qualche emozione, qualche piacere, qualche anche dispiacere. Cioè, però qualcosa forte. Cioè, questa cosa che dice John Fosse, sono completamente d'accordo. La poesia non... Cioè, vivo anch'io ogni poesia, ogni cosa che riesco a scrivere come un dono dall'universo, non è che creo io, perché mi viene in mente una cosa a cui riferisco tantissimo nel mio pensiero a Jacques Derrida, nel monolinguismo dell'altro, quando dice non possiedo il linguaggio, cioè è tutto mio privato e anche tutto il pubblico. Certo. Cioè, ognuno ha il suo linguaggio, però l'unico modo per usufruirlo è nel comune, nella comunità. Ascolta, a me piace pensare, immaginare il poeta, la poetessa come una forma sublimata di musicista, in cui il testo viene associato a una musicalità che è già insito nel testo, che è già insita nel testo. Tu ti ritieni una musicista del tuo pensiero? Non ho mai pensato così a questa idea, però mi piace molto, perché credo che io in un'altra vita avrei voluto essere un musicista, cioè, quindi forse per quello faccio la poeta, perché sì, uso le parole sì, come note musicali. Sono d'accordo, mi fai venire in mente uno dei miei idoli contemporanei, che è Kay Tempest, attualmente Kay Tempest, che effettivamente, avendo riconosciuto i limiti della fruizione della poesia, che non sono limiti logicamente che appartengono al poeta, alla poetessa, ha deciso di mettere la poesia in musica. e credo che sia stato un atto eroico, un atto di ascolto di quelle che sono anche le istanze del mercato, e questo mercato onnivoro che ha sempre bisogno di novità e di nuovi linguaggi. Il linguaggio della poesia invece è proprio un linguaggio ancestrale. Sì, infatti non è un nuovo linguaggio, anzi è l'origine della poesia, è una cosa orale e di ascolto. Però questa cosa anche del limite della parola è molto vicino, perché credo che scriviamo la poesia un po' per annichilirlo. Cioè, è bello comunicare, però sarebbe più bello trasferire questa energia da una persona all'altra. Mi fa pensare anche dal poeta libanese, francese, americana, Etel Adnan, che lei ha scritto in arabo, in francese, in inglese, fino ad arrivare alla pittura. Precisamente. Cioè, perché c'è la parola, cioè, a un certo punto disintegra un po'. Che arriviamo alla poesia asemantica, i suoni del corpo, cioè non è necessario avere proprio un contenuto oltre il suono dell'essere umano a volte. Credo che quello sia stato un passaggio di traduzione veramente metaparadivino, perché alla fine dei conti si è passati da un linguaggio diacronico che contempla necessariamente il tempo attraverso la catena parlata, che è il linguaggio della poesia, a un linguaggio sincronico che è quello dell'immagine. Sì. E come è possibile tutto ciò? Come è possibile tutto ciò? Come tradurre la parola in immagine? Forse anche un desiderio, cioè la poesia forse ha un desiderio, cioè intendo tutta la poesia, di essere come la pittura un po' come la poesia, però di rendersi una cosa che esiste anche in quel momento lì, di essere presente con la poesia quando una persona lo dice, o anche quando siamo a casa a leggerlo da solo, di non raccontare un passato né un futuro, però il presente, che è praticamente impossibile per la poesia, però di creare questa illusione, forse è un po', forse è anche il mio desiderio nella scrittura. È un desiderio totalmente condivisibile, nonché auspicabile. Mi sfugge la domanda che ti stavo per porre a tutti gli effetti. Ascolta, io penso che noi autori, a prescindere da quello che viene definito da Bifo il cognitariato, noi autori facciamo quello che facciamo anche per una componente terapeutica del linguaggio che utilizziamo. Come influisce su di te la poesia che crei? Credo che a volte mi lascia la libertà di immaginare altre situazioni, di non essere intrappolata nella realtà, però allo stesso tempo fa esattamente il contrario, che ti porta proprio di essere con i pensieri, i vissuti, tutte le cose belle e brutte nella vita. Credo molto nella parola come una cura. Come il canto, cioè, credo che cantare fisicamente ci cura di tante cose, anche recitare le poesie, creare momenti in cui possiamo liberarci da certe cose, cioè, perché come una fotografia, una volta fatta non è più dentro di noi, è condivisa. In questa condivisione forse c'è a volte una speranza di non sentirci soli, oppure di sentirci accolta dagli altri. È un modo per scappare sempre alla morte, all'idea di morte? Non lo so. Ai posteri, Lardo, senti. Anzi, secondo me ci avvicina un po' alla morte. Perché ce la rende più naturale? Ce la rende più vicina, perché comunque l'atto di scrittura arriva sempre in ritardo. Cioè, perché è una riflessione di qualcosa o successo o nella memoria, e sappiamo che nel momento che è scritto è già un passato, e sarà là non per sempre, però dopo di noi. E quindi questo pensiero di dopo di noi comunque a me non fa scappare dalla morte, anzi mi fa pensare alla morte e lo fa una cosa più quotidiana. Lo fa anche un... io penso alle persone che ho perso io. Qualsiasi cosa che hanno lasciato, sia la voce, anche lo scritto, tengo molto vicino. Cioè, di sentire la voce di una persona è come averlo con noi. E quando non possiamo avere più la persona vicino, sentire la voce è molto rassicurante a volte. Però anche leggere la scrittura di una persona, la traccia della mano, ci porta a star vicino sempre, di essere ancora assieme, perché sono cose che non possono essere mai replicate, mai più. Hai una voce molto dolce e rassicurante e un accento molto musicale. Cosa hai prodotto per il nostro simposio, Alison? Allora, quando mi ha invitato qui, volevo portare voci di altri poeti, perché comunque io vado in giro per la città ascoltando spesso la poesia come tracce musicali. E credo anche, cioè, ho pensato molto a Charles Olson, che è poeta americano del Black Mountain School, che nel 1950 ha scritto un saggio, si chiama Verso proiettivo, che parla del fatto che il poeta fa un trasferimento di energia. Quindi volevo trasferire a voi, ascoltatori, ascoltatrici, dei poeti cari a me. Quindi ho fatto questa composizione di poeti che non ci sono più e poeti vivi, misto fra italiani e americani. Quindi abbiamo un brano di Patrizia Vicinelli di 89, Domani Aba. Poi abbiamo Giulia Crispiani, poeta che vive a Roma. È un poesia che si chiama Lascia andare di 2025. Una traccia di Tommaso Binga, poeta novantenne che vive a Roma. Che dimmi peraltro qualcosa. Anche lei lavora con l'immagine anche. Sì, sì. Cioè lei lavora con l'immagine, fa poesia concreta, fa anche installazioni. Una molto bella al Mambo al momento, tra l'altro. poi abbiamo Jahan Kajavi, poeta americano che vive a Roma. Un poesia si chiama Sonetto. Robert Duncan, poeta della metà del Novecento, californiano, una poesia si chiama I am often permitted to return to a meadow. Poi Tommaso Di Dio, poeta che vive a Milano, Ardore, registrato adesso, e anche Maria Luce Cacciaguerra, AA, 2025, poeta catanese che vive a Milano. Quindi abbiamo anche delle registrazioni apposta per noi. Fantastico, siamo molto orgogliosi, ti ringraziamo di cuore Alison di essere qui con noi. Grazie e di aver portato questo contributo. Ricordati di ascoltare e ascolta il tuo ascolto, Alison. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Venerdì domani abba! Domani, yes! He said, and he say, yes. Era qualcosa fra inside me and you. Ma piuttosto il mondo e me e te. Abba, dor, mente no. Abba, domani, he said, the sculpture, hi. Como me dorme exquisito, como eyaculatoria, hab, ha, do, mani, yes, sleep, now. Cosa c'entra the wall between me and you? C'entra, c'entra il Vangelo delle lingue, idiom evangelic. El di Abadu Menno, today after the world, now il mondo accerchiato nel presente. Abba, he says yes, como me gusta il mondo, dice, me deca deca me e nel mondo. Abba, in and out, within and without. Lascia andare, lascia stare, tu non dire quante volte sale il groppo alla gola come intento a lavorare sulla ritmia del respiro, si sentono polmoni che formicolano, lascia andare, lascia stare, non ci pensare, pare vero, come se sul serio si potesse mettere un freno al cuore quando ammonta l'ansia e la paura e si stringe attorno al petto, lascia andare, lascia stare, prova a vedere se riesci a non capitolare, non provare per piacere a rimanere in questa verticalità, l'insistenza ad una vita, l'intenzione di restare in piedi, non venire travolte dal mondo che avanza ricurvo con tutte le sue idiosincrasie e idiozie. Ma da dove verrà la tua avversione, l'ostinazione a continuare a immaginare un mondo senza guardie né galere? Chissà, lascia stare, lascia andare, vatti a comprare qualcosa di dolce per mandar giù tutto l'amaro del mondo. Non pensare a tutto quel male, pensa al mare, alla sabbia calda, lasciati cadere all'indietro e sentire il calore. E la morbidezza della libertà, del colore, del cielo e l'oro del riflesso del sole, lasciati andare, lascia stare. Lascia stare, padroni, debiti e doveri, non ti far venire pensieri, lascia che la penna scorra sul foglio come un fiato di libertà, un vento fresco a sciogliere tutti i nodi che vengono al pettine, a sognare di svegliarsi in un mondo senza muri e confini, senza bombe né bulldozer, la traiettoria di volo di una rondine che racconta di un mondo dove siamo libere tutte. Lascia andare, lascia stare. Quante volte te lo si deve dire, sta spensierata, crogiolata nelle tue modeste aspirazioni, non ti incaricare, sta a sentire che da domani non si lavora più, non si vende più a nessuno, non verrà nessuno a rubare né a espropriare, tutti i debiti verranno sanati, è finita la schiavitù, la polizia si è dimessa, non esiste più, da domani ci si lascia in pace nel senso letterale dell'espressione, se ne vanno tutte le serpi dal seno, strisciano via in un grande gaudio di sonagli, una festa, un sospiro di sollievo, un urlo d'esultazione. Il suolo è di proprietà nostra e non si debbono più pagare le tasse. Pensa come ci si lascia andare a queste ambizioni che sembrano così semplici. Non ci sono più. La segregazione, la supremazia, la bianchezza, il maschilismo, c'è solo l'affetto, senza pretese di proprietà, tutte poete, coese e collose, contente di lasciare ad ognuna l'arbitrio sul proprio corpo e sui propri sentimenti. Lasciarsi andare a dovere, una sul corpo dell'altra, solo quando conviene ad entrambe o quant'esse siano. A sentire il calore della pelle altrui per puro giovamento senza presunzione di possesso, solo il conforto di lasciarsi andare, perdere di vista dove finisco io e dove cominci tu. Lascia che la penna scorra sul foglio come un flusso d'aria al mare, un vento fresco che si spinge sull'aquilone, sulla spiaggia, dove tu potrai tornare perché ci risvegliamo tutte libere da ogni pensiero, senza oppressori né coloni. Siamo tutte a casa con le radici profonde, le fronde che leggere si librano. Lascia andare, lascia stare, vatti a cercare una spalla su cui adagiare la testa che scoppia, mani da accarezzare, qualcuna che voglia lottare al tuo fianco e lascia andare con te, che su di te voglia lasciarsi andare e che ti permetta di fare altrettanto, manifestare rabbia e dissenso, amore intenso, magone, soddisfazione, vicinanza e accettazione, affinché tu possa dimenticare tutta la tensione che il mondo ti provoca, lascia andare, lascia stare, di trovarsi nel lusso estremo di un brivido causato dal tocco, l'intensità della gratitudine di poter non pensare un attimo a sopravvivere, a chi spetta questo sfarzo, chi se lo concede, scorre il pensiero e si immagina ancora più intensamente un giorno in cui questo succede a tutte perché siamo libere di lasciarci andare, lasciare stare, non pensare, vale a dire non dovere, farsi scivolare, espirare a lungo, svuotare i polmoni di tutte le preoccupazioni, rimpianti, le questioni annose, tutte poete, coese e collose, una sull'altra, modiare un trionfo, una festa, una colazione abbondante per tutte, nessuna esclusa, da nessuna parte, tutte gioiose, libere, luminose, radiose. Lì giù live a lasciarsi andare, coi denti belli in vista, generosi, si mettono in vista, lautamente si spendono in sorrisi e risate, scorre la penna sul foglio, liscia, non incontra resistenza, continua a sognare un mondo dove la Palestina è libera e noi pure. Lascia andare, lascia stare, ostinatamente insisti affinché sia un tuo diritto, ma non solo nostro, di tutte, quello di lasciarsi andare, lasciare stare, non ci pensare, Vai a crogiolarti al sole senza temere le prede, fai la ruota come un pavone, fammi vedere come sei bella e tutti i modi che hai di brillare anche senza dire una parola, con uno sguardo casuale, quando non pensi e ti lasci andare, è lì che dai via la tua essenza più pura, il tuo amore, lascia stare, non pensare, lascia andare. Vorrei poterti dire che qui sei al sicuro, che sei arrivata a casa, sei tornata a te stessa. Ora puoi lasciarti andare, espirare, tirare quel respiro di sollievo, gemere e gioire, sentire la serotonina che ti pervade le vene, il calore, il muscolo che si distende, un sapore dolce, una risata scrosciante, un verso appagante, le parole che si mettono una dietro l'altra e ti sorprendono, una sfumatura inaspettata, uno stupore gustoso, leggera come un fiato di vento che tira lì apposta ad asciugarti via sudore e fatiche, lascia andare, lascia stare, che domani ci si sveglia tutte libere e innamorate. Lascia andare, lascia stare, vorrei venire con te a passeggiare per le strade senza avere paura, lascia andare, lascia stare, non temere mia cara, solo mano nella mano si può osare di sognare un mondo dove la notte è come il giorno. Dimmi qualcosa con la tua fresca bocca di rosa, dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa con la tua mano calda e sinuosa, dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa con la tua pancia liscia e pastosa, dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa con la tua gamba snella e nervosa, dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa con la tua vita stretta e flessuosa, dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa con la tua gola soda e vezzosa, dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa con la tua lingua rossa e carnosa, dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa con la tua faccia bella e pensosa, dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa con la tua pelle bianca e odorosa, dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa con la tua voce dolce e armoniosa. Dimmi qualcosa. Before those twin kings found their furry wet nurse, and Papa Time cropped a brand new bag from his Uranian, heavenly, not fag, father, Salamachus snatched a purse himself, while Elagabalus, the inverse, awaits in the Tiber. These half-men have, in drag, or keepers of the women, been a drag for some, but for others it could have been worse. Then after we got paradise for higher ground, who else, from wild boar attacks, besides the bel paese, casts a choir of cherubim, or fashions for pot max, a chair for cards to check neath silk attire, that there is, post Joan, nothing that he lacks. History's a load of sacks. For how much longer must we mind the bollocks in this infernal city of Peter and Pollux? Often I am permitted to return to a meadow as if it were a scene made up by the mind that is not mine, but is a made place. That is mine, it is so near to the heart, an eternal pasture folded in all thought, so that there is a hall therein. That is a made place, created by light, wherefrom the shadows that are forms fall. wherefrom fall all architectures I am, I say are likenesses of the first beloved, whose flowers are flames lit to the lady. She it is, queen under the hill, whose hosts are a disturbance of words within words, that is a field folded. It is only a dream of the grass blowing east against the source of the sun, in an hour before the sun's going down, whose secret we read in a children's game of ring around of roses told. Often I am permitted to return to a meadow as if it were a given property of the mind that certain bounds hold against chaos, that is a place of first permission, everlasting omen of what is. C'è una grande calma intorno alla parola degli uomini. Montagne, sotterranei, laghi, strettoie, cunicoli, metropolitane, scuole, ponti. La gravitante scia di fotoni in rifrazione sul metallico apice fuoriuscito dal ciglio di un calcestruzzo in frana. Tutto questo un giorno sarà silenzio svuotato. Eppure dire così non ci basta. Siamo di più, vogliamo l'illusione di continuare, parlare a qualcuno, amare qualcuno, dire, fare, sopprimere. Ma guarda la solidità del sole sul vetro adesso, la sua materia esatta e sbalordita. C'è questo essere qui, non è nato e non può morire mai. Un poeta che legge un altro poeta. Questo tempo non è reale, ma tutto questo che so essere reale. Il cucchiaino e la scarpa. Questo tempo non è abbastanza per rappresentarvi tutti. Rumore di caldo. Io non appartengo a nessun posto che non abbia nome di mare. Parole per l'azione, non per il significato. E il potere del suono lavora anche a livello limbico sulla produzione di dopamina. La condizione sine qua non, è sempre la stessa, ovvero l'ascolto. La possibilità di produrre benessere tramite l'orecchio è quindi sdoganata, ma possiamo produrre o indurre altre emozioni o reazioni attraverso il suono? E con quali implicazioni? Lo chiediamo a Umberto Ciceri e Guido Corti. Umberto, Guido, ciao, benvenuti. Ciao, siamo Umberto. E io sono Guido, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie per essere qui a contribuire a questo tentativo di sdoganamento di quello che è l'ascolto. Umberto Ciceri è un artista visivo la cui poetica verte sullo sviluppo della percezione neurovisiva e Guido Corti è direttore d'orchestra, cornista ed esperto di musica sacra. Allora, Umberto e Guido, nel 2015 Monica Gagliano, biologa e direttrice del laboratorio di intelligenza vegetale di Stanford, nell'ambito delle ricerche di fitoacustica, è riuscita a direzionare le radici di una piantina di mais nella direzione desiderata, utilizzando frequenze fra i 200 e i 400 Hz. Se da un lato ha potuto dedurre una capacità di ascolto della pianta, dall'altro ha provato ulteriormente la possibilità manipolatrice del suono. Questo anche in mancanza di un sistema neurale cui il nostro antropocentrismo fa sempre riferimento. Proviamo a sviluppare questa idea di manipolazione possibile che ha il suono. Beh, Tralasciando per un attimo la piantina di geranio, mi viene voglia di così fare due chiacchiere sui brividi musicali quando rivelano un'attivazione del sistema delle emozioni, il sistema limbico sull'essere umano, e ha un potere di amplificare le facoltà oniriche diverse da individuo a individuo. E in generale i brividi sono accompagnati da un aumento di flusso sanguigno cerebrale nello striatum mediano, nel mesencefalo e nell'amigdala. E a me interessa molto perché in alcuni lavori cerco di provocare il fenomeno che viene definito frisson, ovvero il nodo alla gola, la pelle d'oca o addirittura le lacrime che scendono incontrollate. Un effetto psicoattivo che rilascia varie prelibatezze come dopamina, ossitocina, serotonina nel cervello di chi ascolta e che è consapevole o inconsapevole, perché lo straordinario è che sono esperienze universali, emozioni simili in individui di culture diverse. Ecco. Un atto eroico anche il tuo, Umberto, e mi viene in mente, sempre pensando e riferendoci a questa possibilità manipolazione sulla mente che ha il suono, che negli anni 70 furono condotti diversi studi e altrettanti esperimenti sui suoni bineurali. La premessa è che parliamo dell'epoca d'oro del New Age e quindi la prendiamo con i guanti di velluto. Suoni che ascoltati avrebbero reindotto il cervello a regolarsi sulle frequenze dei 5-6 Hz, che sono poi le stesse frequenze che il cervello emette nello stadio di dormiveglia e durante anche l'atto di creatività. Furono esperimenti totalmente fallimentari. Com'è possibile, Guido, riuscire a manipolare il pensiero umano attraverso il suono? Io credo che nella storia della musica ci siano grandi esempi di manipolatori, io li chiamo burattinai, ovvero i grandi compositori che sapevano come creare quelle che noi chiamiamo le emozioni. Non è detto che lo sapessero dal punto di vista scientifico, anzi senz'altro non lo sapevano, ma avevano un talento particolare per creare quella cosa, diciamo andare a toccare le corde che tutti abbiamo dentro, che vibrano in simpatia con l'emozione che ci viene trasmessa. Ovviamente poi i compositori si sono divisi in categorie, ci sono quelli che ne hanno abusato, che ne hanno approfittato, e quelli che appunto io chiamo i burattinai, e quelli che invece se ne sono dissociati e hanno scelto linee più austere, adesso senza fare delle divisioni musicologiche che non hanno tanto senso qui, però penso al purismo di Johann Sebastian Bach e della sua famiglia. E invece all'eccesso opposto, che è quello del melodramma italiano, dei compositori che decidevano quando il pubblico doveva piangere o quando doveva ridere, penso a Puccini più di tutto, ma anche nel cinema sappiamo che Chaplin più volte ha affermato di essere in grado di poter fare piangere, ridere o deprimere o esaltare il suo pubblico. Questo è il senso del teatro. Questo è a tutti gli effetti il senso del teatro, e comunque parliamo sempre in un modo o nell'altro, più o meno esplicitamente, di vibrazioni, e la percezione delle vibrazioni in termini così evoluzionistici è un sistema antico. Per esempio le microalghe contengono delle proteine che fungono da meccanosensori e rispondono proprio alle vibrazioni. La vibrazione, per parafrasare McLuhan, è il messaggio stesso? Certo, intanto dobbiamo pensare che quando si analizza un suono se ne verifica la struttura armonico naturale, ovvero ogni suono ha una serie di armonici naturali perché ci sono in natura, ogni suono in natura a una serie che ormai è decodificata da tempo. Zarlino è stato uno dei primi a studiare questa scienza, ma parliamo del XVII secolo. A noi è rimasta invece il grande mistero del perché la combinazione di questi suoni ci crea l'emozione. Non è soltanto la singola vibrazione, ma è la visione orizzontale della musica, ovvero l'armonia, la sovrapposizione dei suoni che crea lo stato d'animo. Tanto è vero che, come diceva giustamente Umberto, come ci ricordava, la stessa armonia proposta a un pubblico di cultura totalmente diversa crea la stessa reazione, le stesse lacrime, la stessa commozione. Per cui c'è qualcosa nel cervello umano che secondo me vibra in simpatia. Non è, credo che non sia banale anche soffermarsi sul fatto che ormai è evidente che il suono modifica, è capace di modificare la materia. Essendo noi sostanzialmente d'acqua, costituiti da acqua, e se io vengo così investito da vibrazioni sonore progettate da un pazzo o da un genio, io mi modifico e questa modifica d'acqua produce appunto così da laboratorio chimico mi modifica e ovviamente mi cambia. Io penso che sia anche un fatto di onde e di onde che modificano la materia, e noi siamo fatti di materia. Potrebbe esserci una ragione qui sotto, insomma. Ma secondo voi c'è una regola, una ricetta, una metodologia, un protocollo, diciamo, per andare a eccitare queste corde così sottili dell'essere umano affinché il suono riesca veramente a interagire con la percezione del mondo o a cambiare un pensiero? Secondo Adorno è assolutamente così, anche se la cosa un po' mi fa paura perché noi non ci rendiamo conto di quello che è il potere della musica e la responsabilità di coloro che questo potere poi potrebbero esercitare. C'è una pubblicazione di Adorno della fine degli anni 30, non a caso della fine degli anni 30, che dice, si intitola Il carattere di feticcio in musica e il regresso dell'ascolto. Ovvero si può fare progredire l'ascoltatore o farlo regredire. Lo si può convincere a comportarsi in una maniera o in un'altra, o anche a invadere la Polonia, citando Woody Allen. Purtroppo la musica può fare questo, può esaltare, e chi avesse queste chiavi fino all'estremo, diciamo così, il livello, avrebbe un potere enorme. Tanto è vero che Goebbels nel 1933 fa un documento rivolto ai musicisti, nei quali scrive delle vere e proprie regole, a lui dettate, temo, da Karl Orff, e queste regole sono che, per esempio, la musica non dovesse contenere più del 10% di sincopi, perché, essendo le sincopi negroidi, eccitavano i bassi istinti, mentre invece la musica, secondo il Reich, doveva essere decisamente in 4/4, in tonalità maggiori, perché le tonalità minori erano spesso giudaiche e massoniche. Ecco, diciamo che nasce addirittura la musica proibita, per cui si possono fare certe musiche, altre no, e vi è censura anche per questo. Del resto l'arte degenerata è proprio di quegli anni lì, e io spero bene che non ci sia mai chi ha il potere dei suoni, ma che li usa semplicemente per stimolare, ecco, per stimolare la mente umana. Avete sottolineato ulteriormente questa grande capacità, nonché responsabilità, enorme potere della musica e del suono. A tal proposito, anche voi avete contribuito a questo simposio radiofonico sull'ascolto con dei prodotti intellettuali che adesso proviamo a diffondere via etere. Vogliamo introdurli? Certo. Beh, vuoi che parlo io? Sì, Umberto, che è il creatore della prima opera d'arte. Beh, dunque, sì, tutto quello che ci siamo raccontati abbiamo tentato di inserire in un'opera polifonica in tre atti presentata alla Regia di Caserta, si intitola Schumann, Fights, Rights, Lights, che teatralizza il testo integrale dei 30 diritti umani iniettandoli in tre meccanismi manipolatori. Il secondo atto è, per esempio, elegge Bach come esempio di persuasione mediatica. Bach scrisse le cantate concependole come strumenti estatici per elevarsi spiritualmente e progettate per provocare la massima trascendenza nel partecipante. E qui l'innesto avviene attraverso un'operazione di trascrizione per mano di esperti di musica sacra, e Guido Corti è qui con noi, proprio è stato uno dei due maestri, l'altro maestro è Antonio Greco del coro Costanzo Porto di Cremona, che hanno sostituito i testi originali bacchiani con i 30 articoli della dichiarazione, sempre in lingua tedesca e sempre in contrappunto. Quindi un conto è leggere il testo del primo articolo, per esempio, tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti, e un conto ascoltarlo innestato nei tappeti magici progettati da Bach. Il testo così acquista superpoteri. Quindi ascolteremo il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 nella cantata 146/7 di Bach. Umberto Ciceri e Guido Corti, noi vi ringraziamo, ascoltate il vostro ascolto e ricordatevi di ricordare. Ciao, buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti.